Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Riprendiamo una nuova settimana prima di quella che poi ci condurrà verso il Natale, e noi di questa tendenza verso il Natale continuiamo a parlare in queste nostre trasmissioni di dicembre. Spero che il tema che abbiamo scelto di affrontare questa mattina non risulti, non dico offensivo, ma quantomeno troppo leggero per alcuni dei nostri ascoltatori. È un tema invece di tutto rispetto. Noi a Salva Danaio ci occupiamo generalmente della miglior gestione possibile del nostro denaro, e quello di oggi, anche se è un tema insolito, in realtà è un tema che cerca di fare attenzione anche a questo. Vi rileggo solo gli attacchi di alcuni pezzi apparsi questa mattina sulle Sole 24 Ore. Il primo porta la firma dei colleghi Francesca Barbieri e Fabrizio Patti. A Natale le sorprese sono sempre bene accette, come quella che il prezzo di un pranzo al ristorante si abbasserà di almeno il 10%. Passare fuori casa il 25 dicembre costerà in media 43,90 euro. Il secondo attacco che vi leggo è quello di un pezzo che invece porta la firma del nostro gastronauta Davide Paolini. Cosa farà nell'era dei consumi in frenata l'indomito gourmet sempre fuori casa? E allora, in tempi di bilanci un po' stretti per tutti, il Sole 24 Ore pubblica oggi una nuova guida per spendere meglio, quella dedicata ai ristoranti, dove mangiare bene con meno di 30 euro, a coordinare la guida è proprio il nostro Davide Paolini, che si è fatto un giro in tutta Italia a caccia di un buon rapporto prezzo-qualità al ristorante. Lo saluto subito, Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che in tempi di crisi comunque parlare di cibo è sempre abbastanza terapeutico, no? Cosa ne pensi? Ma io penso sempre di sì, perché mangiare si deve sempre, e quindi in questo periodo bisogna cercare di non spendere eccessivamente, ma io credo che sia possibile sia fare una spesa accessibile e anche mangiare al ristorante. Magari vedremo poi nel prossimo qualche trucco. E infatti siamo qui pronti stamattina non solo però a dare suggerimenti, siamo pronti anche a coglierne dai nostri ascoltatori, che vorranno come sempre chiamarci, interagire con noi all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Non parleremo solamente io e Davide naturalmente, ma abbiamo coinvolto anche un bel gruppo di ristoratori un po' spalmati in tutta Italia. Tra l'altro alcuni di questi sono indicati nella guida sullo costo di qualità che, come vi dicevo, esce questa mattina con il Sole 24 Ore. Abbiamo interpellato e li spalmeremo in tutta Salva Danaio: Claudio Sadler, chef e creatore di Chic and Quick di Milano; Carlo Cracco, chef del Cracco Coffee Design, sempre di Milano; poi andremo nel centro Italia: Moreno Cedroni, chef e ideatore dell'Acrilico Caffè di Ancona; Paolo Teverini, chef di Pret-a-Porter di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena. I numeri per chiacchierare con noi ve li ho ricordati, adesso faremo un punto della situazione, poi andremo anche nel vivo del tema di questa mattina, che credo che appassionerà anche molti di voi. La borsa, dobbiamo raccontare anche i mercati come stanno andando. Allora, questa mattina i titoli finanziari sono di nuovo sotto pressione, perché si cominciano ad individuare e a calcolare, a conteggiare le perdite che le banche internazionali hanno subito, stanno subendo o subiranno per il nuovo crack che arriva dagli Stati Uniti. Questa volta non riguarda una banca d'affari o una banca commerciale, riguarda invece una società che era stata organizzata, che era stata in sostanza avviata dall'ex numero uno del Nasdaq, Bernard Madoff. Questo signore ha architettato una gigantesca frode da 50 miliardi di dollari attraverso un fondo di quelli che noi generalmente definiamo speculativi, un hedge fund, e questo signore comunque ha mandato in mezzo a questa sua truffa quasi tutte le principali istituzioni finanziarie internazionali. E però, a quanto pare, la borsa questa mattina riesce abbastanza a trascurare questo argomento. Infatti il quadro è positivo fra gli indici del vecchio continente, con Parigi che sta salendo dello 0,88%, Francoforte più 1,96%, Londra in rialzo di un punto, Milano più 0,65%. Tra i titoli che stanno registrando i cali più consistenti abbiamo il Banco Popolare, meno 3,85%. Tra l'altro il Banco Popolare fino a poco fa perdeva di più, perché ancora non aveva comunicato l'entità dell'esposizione nella frode Madoff, chiamiamola così. Adesso abbiamo una quantificazione anche dall'istituto del Banco Popolare, abbiamo una perdita massima, si conteggia di 60 milioni di euro, e di conseguenza adesso questa chiarezza appunto ha fatto risollevare un po' il titolo. Anche Unicredito ha comunicato a quanto dovrebbe ammontare l'esposizione nella bancarotta Madoff, si parla di 75 milioni di euro, in questo caso il titolo perde l'1,76%. Per la verità, in tutta Europa stamattina il credito sta appunto comunicando l'ammontare delle esposizioni. Fra gli altri titoli in movimento a Piazza Affari, Mondadori meno 2,37, Fondiaria meno 2,29, Alleanza meno 1,64, Mediaset meno 1,43. Abbiamo invece uno scatto improvviso di Saipem più 5,42, Impregilo più 2,68, Tenaris più 2,61, STM più 2,39. Abbiamo un rialzo di 2 punti anche per Eni e per Fiat, che ha comunicato appunto la chiusura di praticamente tutti gli stabilimenti in Italia fino al 12 gennaio per fronteggiare la crisi, ma il titolo questa mattina regge anche rispetto a questa comunicazione. Sta volando l'euro sul dollaro a 1,3470, domani ci aspettiamo un nuovo taglio dei tassi negli Stati Uniti. Comunque questi sono i temi di mercato questa mattina, ma noi oggi parliamo di tutt'altro, parliamo di cibo, parliamo delle nostre visite al ristorante. Chissà se quest'anno molti di noi ridimensioneranno anche la prospettiva di trascorrere il giorno di Natale insieme ai propri cari al ristorante. Su questo tema oggi si focalizza anche la guida delle Sole 24 Ore su dove spendere mangiare bene, insomma, con almeno 30 euro. Sentiamo cosa ci racconta la nostra scheda. Natale alle porte risveglia come ogni anno la voglia di stare insieme e di festeggiare. Così, anche in questa fine 2008, c'è chi non vuole rinunciare, nonostante la crisi, al rito della buona tavola e della cena fuori in compagnia, con un occhio al portafogli, certo, ma soprattutto ai sapori. Gli italiani, infatti, stanno diventando sempre più esigenti in tema di cibo e gli studi sulle abitudini alimentari ci dicono che molto più spesso di prima i commensali al ristorante non scelgono il menù completo, ma pochi piatti appetitosi, spinti forse dal rialzo dei prezzi e forse anche dai consigli dietetici sempre più insistenti. Per quanto riguarda i ristoranti, tuttavia, non è così semplice individuare il giusto mix di qualità e prezzo. Così la maggior parte di noi si affida ai consigli di amici e parenti, di riviste o guide specializzate, di grandi chef o semplici appassionati di gastronomia. In Italia sono più di 100.000 i ristoranti e le pizzerie e quasi 150.000 i bar. E un italiano su 3, secondo l'ultimo rapporto annuale del Censis, dichiara di considerare irrinunciabile un pranzo o una cena fuori casa almeno una volta al mese. Ma quanto ci costa il nostro amore per la tavola? La spesa media per un pasto fuori è di circa 18 euro, bevande escluse. Secondo l'Istat, il prezzo della ristorazione, dopo anni di ascesa, a novembre è diminuito dello 0,6% rispetto ad ottobre e rispetto al 2007 l'aumento è stato comunque inferiore al tasso di inflazione. Per far fronte alla crisi, molti ristoratori hanno cominciato a restringere i menù e a scegliere prodotti del territorio. Così la qualità è salva e il portafogli anche. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Raccontateci la vostra, se avete deciso o meno di frequentare il ristorante per il giorno di Natale, ma anche per il cenone di Capodanno, seppure, visto che continuiamo a parlare di tempi di crisi, avete deciso di fare tutto in casa. Quanto, se andrete al ristorante, avete intenzione di spendere e come vi orientate anche nella scelta del locale da frequentare? Tutto questo, tra l'altro, è il tema anche della guida il low cost di qualità delle Sole 24 Ore pubblicata questa mattina. Oggi il tema è proprio i ristoranti, dove mangiare bene con meno di 30 euro. Il coordinatore della guida, ve lo ribadisco, è il nostro gastronauta Davide Paolini. Davide, dove ti ha portato questo giro d'Italia senza spendere una fortuna? No, allora ti dico subito che è fino a 30 euro, non sotto 30 euro, quindi questo è un fatto importante. Quindi euro, e qualche volta si sfora anche leggermente di qualcosa. Niente, io ho utilizzato anche ovviamente una serie di collaboratori, perché era impossibile fare un giro ad personam del numero dei ristoranti che sono nella guida. Quindi ho usato una serie di personaggi dei vari territori che mi hanno mandato appunto questi risultati. Siamo andati in tutta Italia, praticamente è una guida che riguarda tutta Italia e tutte le regioni ovviamente. Ce n'è qualcuna che è molto più forte di altre, nel senso del numero, anche per la densità dei ristoranti, non tanto per il numero dei prezzi. È evidente che prima è stata detta una cosa secondo me fondamentale, che è quella detta nella scheda, cioè dire che sempre di più non si sceglie più un menù completo al ristorante, quindi questi 30 euro molte volte sono il frutto non di quattro piatti, quindi non dall'antipasto al dolce, ma scalando potrebbe essere un antipasto, un secondo piatto, un dolce, un primo, un secondo e un antipasto, quindi giocando più o meno su tre pasti. E sempre escluso sono sempre escluse le bevande, perché tutti puntiamo sempre il dito sul vino, sempre di più si parla del caro vini ed è un dato di fatto, ma nessuno parla mai del caro acqua minerale, perché le acque minerali che vengono portate ormai in qualsiasi tipo di ristorante hanno un'incidenza che è notevole, perché ci sono delle acque minerali veramente che costano molto ma molto care e alla fine incidono anche quelle sul prezzo del ristorante. Una bottiglia d'acqua minerale qualche volta incide quanto un calice di vino bianco o rosso. Quindi ecco, anche questo secondo me è da mettere in conto. Infatti, il conto preventivo, certo. Dov'è che si scoprono questi ristoranti, questi locali? Laddove le location costano meno d'affitto. È evidente che avere un menù a 30 euro a Milano è molto difficile rispetto a un paese di campagna o una trattoria di una città di provincia, perché dobbiamo anche considerare, io non voglio prendere difese dei ristoratori, tutt'altro, anzi molte volte ho puntato il dito sul caro menù e sul caro vino, però bisogna anche considerare le differenziazioni che ci sono sui costi fissi che incidono su alcune attività e non altre. Ma certo, poi voglio dire, a parte la difesa dei ristoratori, questo è un problema che riguarda un po' tutti gli aspetti della nostra vita. Una casa in affitto per una persona che lavora a Milano ha un certo peso, piuttosto che per una persona che per lavoro, magari per tutt'altro tipo di lavoro, deve andare in Sicilia. È chiaro che per la sua casa paga in maniera molto molto diversa, per cui è chiaro che anche questo è un aspetto da tenere ben in considerazione. Allora, prima di coinvolgere i nostri primi due ristoratori, che sono Claudio Sad, che però saluto intanto per dar loro il benvenuto, a Salva Danaio, chef e creatore di Chic & Quick di Milano Sadler, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E saluto anche Moreno Cedroni, chef e ideatore dell'Acrilico Caffè di Ancona. Per chi sa che io sono anconetana, sappiate che questa scelta è del tutto casuale, per cui non c'è conflitto di interessi in questa puntata. Cedroni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Io ieri ho lasciato un Ancona che aveva un tempo splendido e non le dico quanto pesce ho mangiato a casa di mia madre, però non aveva cucinato lei, Cedroni, ha cucinato mia mamma, le posso assicurare che la potreste assumere molto, molto con grande successo. Insomma, a parte questo, in realtà ero un po' distratta perché sto già notando cosa stanno scrivendo e su che cosa vogliono intervenire i nostri ascoltatori. Allora sento Giovanni Carlo dalla provincia di Trento, Giovanni Carlo credo che sia un unico nome, e poi sentirò, rispetto a quello che vuole dirci, i commenti dei nostri chef questa mattina in linea. Giovanni, benvenuto. Pronto? Giovanni, ci siamo. Sì, mi sente? Sì. Ecco, niente, io volevo intervenire in questa trasmissione, innanzitutto complimenti. Grazie, Giovanni. Qui in Trentino è difficilissimo trovare dove puoi mangiare bene senza spendere delle cifre da capogiro. Io sabato mattina sono andato da un mio fornitore, ho comprato del tonno fresco, e ieri sera ho fatto un carpaccio di tonno specifico fresco, non congelato o meno, una tartare di tonno e degli spaghetti col tonno, senza contare il da bere, perché eravamo in un localino privato. Noi abbiamo speso 6,50 euro. Allora, non ho capito, Giovanni, lei è andato in un albergo e ha speso questa cifra? No, l'ho fatta io in casa, diciamo. Ah, ho capito. Non ho capito poi il riferimento che ha fatto andare in un locale, ecco. No, nel senso che era a casa sua, era in un locale tranquillo, per quello. Sì, eravamo in un locale, però un bar, ecco, dove abbiamo fatto questi spaghetti, ma fra amici. Va bene, ho capito. A prescindere, diciamo, dal locale, comunque ha speso assolutamente una cifra ragionevole, magari per la stessa tipologia di prodotto, chissà il ristorante quanto avrebbe speso. Claudio Sadler, Chic & Quick, io magari mi sbaglierò anche con il nome del suo locale, una tartare di tonno nel suo locale, ovviamente non credo che potrebbe permettere. 10-11 euro, adesso non ricordo precisamente, comunque una cifra di questo genere. Riusciamo a volevo rispondere al mio conterraneo trentino di, che chiaramente quando si fa da mangiare a casa non ci sono i costi che diciamo sono quelli più pesanti, cioè il costo del cibo in un locale economico come Chic & Quick ha un valore di un certo tipo, quindi bisogna stare molto attenti, però ripeto, un antipasto di tonno, gamberi e pesce spada, una tartare costa intorno a 10-11 euro da me, quindi alla fine se lei considera che il servizio, tutto il resto, certo, il servizio, l'affitto, il costo dei camerieri, il costo dei cuochi, i costi di ammortamento e tutto quanto ci sta intorno, insomma, non andiamo molto distanti da quello che è il costo, diciamo, puro del piatto che ha fatto il nostro amico. E infatti, quindi... Sadler, mi dica, qual è la percezione della crisi che avete voi ristoratori in questo momento? Dunque, io ho due locali, quindi sì, il Chic & Quick non sta sentendo questa crisi, in quanto si spende a mezzogiorno, si arriva difficilmente a superare le 30 euro, a meno che non si splafoni con il vino, come diceva appunto Paolini prima, il gastronauta, e invece la sera intorno dalle 35 alle 40, 45, sempre stando, diciamo, attenti con il vino. E qui non c'è questa grande preoccupazione, vedo che la gente, anche i miei clienti abituali del ristorante Stellato, vengono a passare parecchie serate in questo tipo di ristorante. E avete già delle prenotazioni per quello che riguarda Natale e Capodanno, per quello che riguarda i vostri locali? Natale oppure c'è una tendenza? Chiusi, invece Capodanno, ecco, faremo un menù particolare, però abbiamo già qualche richiesta, quindi sì. Per quanto riguarda invece il ristorante Stellato, ci sono degli alti e bassi, dato che il costo è ovviamente molto più alto. Il lavoro è un po', diciamo, altalenante, però è chiaro che essendoci una crisi di questo tipo, il ristorante di lusso viene ad essere un bene superfluo. Infatti, però continuiamo a lavorare, manteniamo, diciamo che abbiamo avuto una perdita, ma non così eclatante, speriamo che continui a migliorare. Andiamo ad Ancona, Moreno, Cedroni, per quello che vi riguarda lo stesso, le rivolgo la stessa domanda, a prescindere, diciamo, da che tipo di menù si può confezionare con 30 euro, noi manteniamoci intorno a questa cifra questa mattina, le chiedo qual è la vostra percezione della crisi, famiglie in difficoltà, frequentano meno il ristorante, di conseguenza anche voi vi siete dovuti adeguare con il menù proposto? Dunque qui, per quello che riguarda la Madonnina del Pescatore, no, diciamo, c'è lo stesso menù e naturalmente c'è un calo, diciamo, per quello che riguarda le aziende che hanno ristretto i budget, e comunque c'è un cliente, chiamiamolo il gourmet, che fa il weekend, che gira per cibi e per vini, che comunque è rimasto abbastanza costante. Ecco, diciamo che in periodi come questo, di festa, di regali e di ponti, si sente un pochino la contrazione, nel senso che le serate principe come sabato sera ne risentono un pochino, proprio perché le persone si dedicano un po' di più ad altre cose. Per quello che riguarda invece Acrilico ad Ancona, il concetto del prezzo ridotto è perché c'è una riduzione di tutto quello che sono i costi aggiuntivi molto alti della ristorazione di prestigio oggi, che sono i costi del personale, sono i costi dei materiali, il costo della gestione del locale. Guardi, quindi... Cedroni, la interrompo solamente perché credo che su questo tenore ci fosse anche una considerazione di un nostro ascoltatore, che è Gino dalla provincia di Napoli. Gino, benvenuto. È evidente, volevo effettivamente mettere in risalto questo problema del servizio coperto. Sembra che nelle altre nazioni, se ci sia, non sia così eclatante come è da noi. Consideriamo che se si esce non per stare fuori per lavoro, e quindi è chiaro che si economizza, ma si vuole uscire con una famiglia intera, diventa effettivamente un salasso andare oggi al ristorante, almeno quattro persone, due ragazzi e una coppia, e diventa problematico. C'è il piacere di andare, certo, ma non si riesce a quadrare per quanto poi arriva il conto. Certo, Gino, ma lei senta, che cosa farà a Natale? Lo farà in famiglia oppure, non lo so, se avesse già in passato l'abitudine di andare al ristorante nel giorno di Natale o per Capodanno e quest'anno cambierà le sue abitudini? Gino. Assolutamente, io dicevo proprio il piacere di andare qualche giornata di bel sole, farsi una passeggiata e poi trovare la possibilità di andare al ristorante, però i prezzi sembrano coperti, servizi e giustamente come diceva il signore prima anche del vino o dell'acqua. D'altronde qualche ristorante sembra che abbia deciso di dire portatevi il vino da casa. Gino, speriamo di non dover arrivare anche a questo. Comunque il problema esiste e mi pare che anche sia i ristoratori che anche il nostro gastronauta appunto ce l'abbiano già indicato chiaramente. È anche vero che però quando poi andiamo al ristorante, no, poi siamo sempre pronti a lamentarci se il servizio non ci piace, se magari il tavolo non è apparecchiato correttamente, quindi anche quello è coperto, il servizio ci piace appunto che sia fatto anche in una certa maniera, diciamo che anche noi non è che come clienti ci accontentiamo molto, molto facilmente. Salva Danaio. In questi giorni imperversa l'atmosfera natalizia inevitabilmente anche a Salva Danaio. Stiamo tentando di capire se in questo periodo di crisi possiamo serenamente frequentare il ristorante tra Natale e Capodanno senza dissanguare le nostre finanze. In tutto questo c'è utile la guida che stamattina pubblica il Sole 24 Ore, il low cost di qualità, i ristoranti dove mangiare bene con meno di 30 euro. Il nostro gastronauta Davide Paolini, stamattina ho la patata in bocca visto che parliamo di cibo, parliamo anche di questo, non riesco a parlare correttamente, sarà il tempo. Davide, c'era un ascoltatore che da Napoli che diceva giustamente, poi non so, questo me lo devi confermare tu, dice che il servizio e il coperto che si paga nei ristoranti italiani è molto più elevato rispetto a quanto non accada nel resto del mondo. Io non ho mai avuto modo di fare questo confronto, tu che lo conosci molto bene, però ha ragione Giovanni? Gino da Napoli, sì. Io sono 20 anni che faccio una guerra contro questo balzello che è pane coperto, però devo altresì dire che negli ultimi anni molti ristoranti lo hanno abolito. All'estero non esiste pane coperto, ma esiste il servizio. Davide, quindi... lo hanno abolito, però caricando magari la spesa che viene a mancare da qua su, che ne so, su quanto poi viene sul conto finale. Questo è tutto da verificare, perché bisogna vedere quanto gli costano ogni singolo piatto. Alcuni lo hanno abolito da anni ritenendo che sia veramente ingiusto pagare pane coperto, però ora è sempre più difficile trovarlo nei ristoranti come voce ad hoc. Probabilmente è così nascosto tra le voci dei vari piatti, questo è possibile. Credo che alcuni l'abbiano fatto, altri. Volevo anche rispondere al discorso del vino, perché questo signore ha detto come battuta allora mi devo portare il vino da casa. Certo, ci sono i ristoranti, molti ristoranti che hanno adottato negli ultimi anni un particolare che si chiama diritto di tappo, diciamo preso a prestito dai paesi anglosassoni, dall'Australia e dagli Stati Uniti, che significa che tu ti puoi portare la tua bottiglia al ristorante e ti viene caricato un servizio che di solito è intorno a 10 euro. È evidente che uno si deve portare da casa una bottiglia che ha un certo valore, perché se uno la va a comprare al supermercato e costa 5 euro non ha senso poi portarsela e farsi appioppare 10 euro. Certo che poi è anche una scena abbastanza triste, lo so, però... Ecco. Diciamo che però secondo me non è assolutamente una scena triste. No, dici... No, in tutti i paesi del mondo, specialmente nei grandi ristoranti americani, anche quelli a 3 stelle e anche quelli australiani, si vede la gente arrivare con delle bottiglie straordinarie che magari a casa, che gli sono state regalate. Io lo ritengo anzi... quello è un discorso, se uno perché ha proprio, che ne so, il gusto per un determinato certo. prodotto, questo è un altro discorso, però che da qui dobbiamo passare addirittura, perché i costi non sono sostenibili, a doverci portare il vino da casa mi sembra un passaggio in quel senso lì, Davide, no, lo intendevo un po'. Un modo per spendere molto meno, come alcuni ristoranti in questo periodo nelle Langhe hanno adottato il diritto di tartufo, cioè dire che tu il tartufo te lo compri al mercato, te lo compri dal tuo grossista oppure te lo regala qualcuno, vai al ristorante e ti viene preparato, ti viene pulito, ti viene grattugiato con un costo di servizio. Io credo che sia un senza pudore è una strada, dici tu, che insomma si può esplorare tranquillamente. Guarda, sui vini ti faccio sentire anche Santo da Vicenza, poi faccio replicare a Cedroni e Sadler, che saluto poi perché dobbiamo anche sentire altri due ristoratori, Teverini e Cracco. Santo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, senta, io proprio a proposito dei vini volevo dire la mia opinione un po' contrariamente a quello che ho sentito per ultimo. Sì, io ieri sono andato a pranzo fuori, eravamo in due persone, e un ristorante ottimo, pranzo buonissimo, dall'antipasto al caffè. Quanto ha speso Santo intanto? Ho speso 95 euro, non tanto. Quindi, però insomma, notavo una cosa, che io ho pagato una bottiglia di vino, una carta dei vini eccezionale, fra l'altro, 12 euro. Ne abbiamo bevuta mezza bottiglia, eravamo in due, anche per questione di traffico stradale non si può bere più di tanto. Quello è vero. Ho lasciato la bottiglia lì e facevo una riflessione. In pratica io, se avessi potuto portarmi la bottiglia a casa, avrei pagato 12 euro, in questo modo è come se avessi pagato 24 una bottiglia, in un certo senso. Poi un'altra riflessione che facevo, c'erano vini anche da 30-40 euro a bottiglia, e chiaramente uno magari non li prende per il prezzo, però farebbe anche piacere poterli assaggiare. Allora, se si inserisse nei ristoranti la possibilità o di portarsi la bottiglia poi a casa senza essere guardato come un barbone, oppure se si potessero prendere dei calici di vino, soltanto il calice, magari io durante il pranzo avrei preso due, un bianco e un rosso e poi qualcos'altro. Però, certo, dovendo aprire una bottiglia, chiaramente non vado a spendere altri 80 euro per aprire due bottiglie. Santo, sentiamo cosa ne pensano i ristoratori di questi suggerimenti che ci state proponendo questa mattina. Claudio Sadler, Chic and Quick. Ah, ma non c'è nessun problema, basta dire voglio portarmi via la mia bottiglia, gli è un bel cartoccino e nessuno si sconvolge. Per lei non ci sarebbe nessun problema, insomma, ma infatti. Vero. Poi, se una persona vuole bersi tranquillamente un bicchiere di vino, o due bicchieri di vino, tre bicchieri di vino, o anche un calice di birra differenziati, abbiamo adottato ormai quasi tutti i locali di questo genere, ma anche nei ristoranti stellati, il servizio al bicchiere. Quindi diciamo che come clienti abbiamo qualche volta un po' di pregiudizio nel fare delle domande particolari, che come dice Santo ci fanno sembrare dei barboni, invece in realtà non bisogna avere nessun timore. Esiste, non esiste. Anche al ristorante, quando uno beve una bottiglia di grande livello, perché deve lasciarla qui? Se vuole portarla via, per noi non c'è nessun problema. Gli mettiamo il suo tappino, gli facciamo un involucro in una bottiglia, in una borsetta da bottiglia, se la porta via e non succede proprio nulla. E infatti, grazie a Claudio Sadler di Chic and Quick. Adesso da lui ci spostiamo in un altro locale di Milano, che è il Cracco Coffee Design. Stiamo chiamando Carlo Cracco, però volevo sentire su questa questione dei vini anche Moreno Cedroni dell'Acrilico Caffè di Ancona. Ovviamente anche qua il vino molto molto buono, ne viene prodotto in grande quantità e in grande qualità anche nelle Marche. Qual è la vostra percezione rispetto alla problematica sollevata dal nostro ultimo ascoltatore, Cedroni? Mai, ci siamo arrivati già da tempo, perché e comunque il vino al bicchiere, comunque le mezze bottiglie, e comunque se il cliente, anzi siamo noi i primi a dire al cliente se vuole portare la bottiglia a casa, forniamo noi tutto il kit, quindi ci siamo già adeguati da tempo. Quindi non c'è problema. Cedroni, ci faccia in un minuto, poi la devo salutare perché devo dare la linea anche a Paolo Teverini di Prêt-à-Porter di Bagno di Romagna, un minuto a 30 euro con il pesce marchigiano. Dunque, diciamo da Antonetano, anzi ad acrilico, ecco, non qui alla Madonnina del Pescatore. Quindi inizierei con un'insalatina di seppie dal colore blu con il cavolo cappuccio, poi una polentina alle vongole e uno spezzatino di tonno. Tutte cose sue particolari, sono ricette sue oppure che si possono anche replicare in casa, Cedroni? O molto geloso lei, insomma, della sua produzione? Perché si possono ben replicare, assolutamente. Va bene, la ringrazio, buon Natale a tutti i nostri ristoratori che questa mattina si stanno, speriamo, divertendo con noi. Sentirei Vincenzo Da Luca per poi continuare anche la nostra chiacchierata con il nostro Davide Paolini, caccia ai ristoranti, che potremmo frequentare a Natale, magari non spendendo più di 30 euro a cranio. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, 800 24 00 24. Continuo a ricordare anche il nostro numero verde, perché magari qualcuno risulterà insomma un po' sorprendente il tema che abbiamo scelto questa mattina, ma pur sempre di denaro parliamo, Vincenzo? Sì, allora, io sono io, mia moglie e 3 figli, e non è così facile andare una volta al mese a mangiare fuori, né di pomeriggio né tanto meno di sera. Uh-huh. E cerchiamo sempre un ristorante che abbia un rapporto qualità-prezzo non conveniente ma discreto. Ci riesce nella sua zona, in Toscana? Sì, sì, a volte ci riusciamo anche in maniera brillante, e a volte usciamo fuori non contenti, oltre dalla cifra anche del prezzo. Per quanto riguarda la carta dei vini, è tutto un po' un'interpretazione da ristorante, da quello che ti spiegano, perché poi sono convinto di chi va a prendere la carta di vini al 99% non ci capisce niente di pomeriggio. Quindi Vincenzo, insomma, questo è un altro aspetto, bisogna farsi ben consigliare anche in questo campo. Davide Paolini, comunque da quello che abbiamo avuto modo di capire fino a questo momento è che in ogni caso, come sottolinei tu anche nella tua guida, si è chiusa l'era degli eccessi a tavola da ogni punto di vista, non solo finanziario. Adesso è finito anche il tempo in cui ci mettevamo, come dire, a tavola a mezzogiorno per finire alle 5 del pomeriggio. Quelle situazioni lì le lasciamo ormai ai matrimoni, in sostanza, e forse anche più neanche quelli. Ma io vorrei tornare un secondo sul vino. Questo signore di Vicenza forse è capitato nel uno dei pochissimi ristoranti oggi che non ha il vino a calice. Ormai hanno capito tutti che i ristoratori per primi, che è conveniente anche per loro servire 3 bicchieri invece che una bottiglia, e quindi ormai tutti lo fanno. Ci sono le mezze bottiglie, e voglio ricordare anche questo, che lunedì prossimo, esatto, la guida ai vini low cost, che ho curato anche questa, fino a 8 euro. Quindi, ma guarda, saremo di qua di nuovo tutti anche su questo argomento, Davide. Allora, per tornare ai discorsi che facevamo, io credo che sia finita l'era degli eccessi, nel senso degli eccessi anche della ristorazione media, nel senso che io credo che in questa crisi chi avrà più sorprese sarà quella tipologia di ristorazione che non dà né diciamo la sicurezza e la qualità dell'alta ristorazione, nei prezzi buoni diciamo della ristorazione che sta al di sotto di quella mediana dal punto di vista del prezzo. Io credo che oggi si possa mangiare bene in osterie e trattorie, ce ne sono tanti in giro per l'Italia, non avendo la pretesa né di un grande servizio né di un grande locale, e chi invece vuole continuare a mangiare in maniera importante può andare nella grande ristorazione, magari mangiando un piatto in meno e quindi non mangiando un menù degustazione completo, facendo attenzione al vino, ricorrendo al vino al calice. Non dico che si può mangiare a buon mercato, il signore giustamente con 3 figli, 2 persone, cioè quindi 2 adulti e 3 figli, mi rendo conto che devono fare una scelta ben precisa, anche perché portare magari 3 bambini piccoli a mangiare in un ristorante dove si fa il menù degustazione non ha alcun senso. Non ha senso, quindi io credo che ci voglia anche il buon senso. Il buon senso, infatti. Intanto, prima di sentire suggerimenti per chi è in viaggio, saluto perché ci ha raggiunto Paolo Teverini, Prêt-à-porter, Bagno di Romagna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Salva Danaio. E intanto qua le mie collaboratrici continuano ad aggiornarmi su quello che sta accadendo non solo in borsa ma anche sui mercati valutari, perché abbiamo appreso che la sterlina è scesa ad un nuovo minimo storico contro l'euro. Abbiamo capito, insomma, questo Natale tutti a mangiare a Londra, ma non c'è bisogno di fare delle scelte così clamorose per poter mangiare bene a costi contenuti. Questa mattina, se avete bisogno di qualche consiglio in questo senso, c'è la guida i ristoranti dove mangiare bene con meno di 30 euro che esce con il Sole 24 Ore, curata dal nostro gastronauta Davide Paolini. Nel frattempo, dopo aver interpellato alcuni ristoratori, ci ha raggiunto anche Paolo Teverini, chef di Prêt-à-porter di Bagno di Romagna in provincia di Forlì Cesena. Perché ha scelto il bistrò francese? Una cosa abbastanza particolare, poi la fa pagare ai clienti, Teverini? No, ovviamente il cliente non deve pagare, il cliente deve averne un vantaggio, come spero di averne io. È un'idea nata oltre un anno fa, in cui sentivo questa necessità di proporre una cucina sempre ad altezza, ma più fruibile per tutti, perciò più accessibile anche alla famiglia del radioascoltatore di prima, con 3 bambini e genitori. Perciò noi offriamo in questo tipo di ristorante, che è accanto all'altro più prestigioso, al Paolo Teverini, una ristorazione che ad esempio il menù del giorno, che cambia sia pranzo che cena, dove un cliente può consumare 4 portate, scegliendo fra 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi e 2 dessert, spende semplicemente 25 euro. Lei cosa riesce a creare con le sue mani, Teverini, con 30 euro? per accontentare insomma un cliente che non può spendere oltre, magari in un momento di festa in cui il costo sarebbe più alto teoricamente, no? Ma sicuramente con 30 euro riesco a fare già un bel menù natalizio, perché riorganizzando la cosa come abbiamo fatto noi, e cioè spogliando un pochino del servizio di tanti artelli che nella ristorazione si erano inseriti e ci sono, rendendo più semplice la cosa, si possono contenere decisamente i costi, soprattutto scegliendo nelle materie prime. Non è importante, e dico una banalità che tutti sanno, non è importante mangiare il filetto di chianina, l'importante è mangiare una carne chianina allevata bene, perciò andiamo a prendere un taglio meno costoso, mm-hmm, ma altrettanto gustoso. Il Fredaporté nasce proprio per questa esigenza, in cui quando al ristorante Paolo Teverini devo servire la lombata di agnello, io invece di comprare una lombata di agnello che mi costerebbe tanto, compro un agnello intero. Tutte le altre parti, cioè la coscia, le spalle, il fegato, eccetera, vanno al Fredaporté. Riesco a contenere i costi dando una materia prima eccezionale. No, tra l'altro su questo punto volevo sentire anche Davide Paolini, perché in qualche maniera, adesso non so se lo spunto è corretto, Davide, ma questa è anche una crisi che potrebbe teoricamente permettere ai locali, ai ristoranti, ai ristoratori di riscoprire le produzioni locali laddove invece magari fino a poco tempo prima l'avevano guardata un po' con distacco, o no? Ma io aggiungo anche le famiglie, perché il discorso che ha fatto Teverini è importante, cioè ci sono dei tagli secondari che il consumatore anche normale ha dimenticato, ad esempio nella carne. Le nostre brave casalinghe che vanno a fare spesa chiedono sempre i tagli del quarto posteriore, che sono quelli più facili da cucinare, sono quelli senza grasso. In realtà nel quarto anteriore, che sono tutte parti che costano molto meno, sono diciamo forse qualcosina in più complicate da cucinare, ma sicuramente altrettanto buone. Ad esempio col quarto anteriore si può fare un ottimo bollito, si possono fare anche della carne ai ferri, mentre si va sempre a prendere questo benedetto filetto che è diciamo il pezzo peggiore dal punto di vista gustativo della carne. Quindi ci sono, io credo che veramente diciamo dobbiamo rieducarci un po' a 360 gradi. Il punto fondamentale non è il chilometro zero, il punto fondamentale è la stagionalità, cioè la gente deve conoscere la stagionalità. La stagionalità esiste anche nel pesce. Se uno compra pesce di stagione paga meno, è sicuro della qualità ed è sicuro che non arrivano dall'estero. Quel signore, il primo che è intervenuto di Trento, che ha comprato quel tonno fresco, non era sicuramente un tonno mediterraneo, era un tonno che arrivava dai mari caldi ed era un tonno a pinne gialli, perché in questo momento non si trova tonno rosso. Quindi è facile spendere meno, ma anche la qualità. Però la qualità ne subisce poi tutte le conseguenze. Certo. 800 24 00 24, volete, se avete voglia, insomma, potete continuare a prenotare i vostri interventi. Ne abbiamo un paio pronti. Stefano da Biella, benvenuto. Sì, buongiorno. Io sono un ex ristoratore che poi si è trasferito all'estero facendo restaurant manager un po' in tutto il mondo. Tornato in Italia mi accorgo che comunque il problema, secondo me, a prescindere il discorso della territorialità del prodotto, della stagionalità, chilometro zero, tutte le cose riscoperte dalla crisi, sono le tasse. Cioè io un dipendente mi costa il doppio quasi di una retribuzione, io ho un food cost di base che è un terzo della vendita e tutto il resto purtroppo mi viene assorbito da tutto quello che sono tasse, accessori, contributi, e lo trovo una cosa che va a discapito del cliente. Del cliente e del servizio, ma questo è un po' anche l'aspetto che abbiamo affrontato così commentando anche un ascoltatore prima di Napoli che ci diceva invece di ritenere il costo del servizio dei ristoranti eccessivo rispetto poi a quello che viene eccessivo rispetto a quello che lui per esempio ha riscontrato anche in questo caso viaggiando un po' in giro per l'Europa. Davide Paolini, è un problema davvero questo così importante per i ristoratori italiani? Sicuramente, anche perché ci sono dei problemi sindacali molto grossi sui turni della gente che deve fare all'interno dei ristoranti, quindi tenere aperto la domenica, molti ristoratori pagano un salasso enorme dal punto di vista contributivo e di spese di personale, è sicuramente un grossissimo problema. Se uno va negli Stati Uniti trova le cucine che sono sempre piene di personaggi che sicuramente non sono a libro paga regolare, è evidente che sono avventizio d'altro, è un problema enorme che è sempre più importante perché ovviamente incide sempre di più sul prezzo finale. Massimo da Roma, benvenuto. Buongiorno, sono un grande utilizzatore di ristoranti. Per lavoro, Massimo, per piacere, no, per personale. Piacere, ah, ecco. Piacere di farlo. E continui a farlo, mi raccomando, e tenga alti consumi, perché questo è un momento in cui... Sono fortunato ad avere una moglie con una grande cuoca, e proprio per questo ho la curiosità di andare a vedere come cucinano gli altri. E quindi, voglio dire, non trovo immorale che un piatto da Marchesi, per esempio, costi 30 volte, 40 volte più di quello che sia il costo vivo delle materie prime. Trovo anzi che la creatività, la capacità anche di inventare, anche di rischiare in cucina vada premiata in ogni caso. Trovo molto più sconvolgente e scandaloso che facciano pagare per due pizze e due birre 40 euro. E il livello medio in Italia è completamente sparito. Abbiamo o il livello bassissimo oppure la grande eccellenza. Trovare un livello medio di buon livello nelle grandi città diventa sempre più complicato. Sono stato ora, seguendo i consigli dello Slow Food in Toscana, ho mangiato in maniera, in provincia di Lucca, in maniera straordinaria, ho mangiato benissimo, un rapporto qualità prezzo eccezionale, ho mangiato, ho bevuto, ho chiacchierato con il ristoratore, ho pagato bene e sono contento. Benissimo, Massimo, la ringrazio anche per la sua testimonianza. Tanto nel frattempo stavo anche controllando alcuni messaggi, perché questi generalmente non faccio mai in tempo a leggerli. Al 349-238-6666 Marco è l'ultimo che è arrivato. Vi segnalo che alla faccia della crisi, ieri a mezzogiorno a Forte dei Marmi era impossibile pranzare senza prenotazione. E un altro, Fabio: vista l'ora mia, mi fermo a mangiare il mio panino con il prosciutto crudo che mia moglie mi ha preparato con amore e dolcezza. Non apprezzo qua, ovviamente, due casi estremi. Però Davide Paolini, l'ultima considerazione che ha fatto il nostro ascoltatore da Roma, lui dice: io non trovo immorale che il piatto molto elaborato e sofisticato di un grande chef abbia un prezzo altrettanto alto, perché ovviamente c'è la cura nella preparazione del prodotto, nella scelta degli ingredienti, quanto invece trovo immorale che invece a questo punto siamo arrivati a pagare una pizza e una birra per due persone, lo diceva, 40 euro. Le mie collaboratrici mi hanno guardato un po' sconvolte, ma io sono sicura che questi prezzi in qualche città li troviamo, e come qualche giapponese che magari viaggia, va a Venezia ogni tanto, qualche sorpresa di questo tipo se la trova o no? Adesso ho citato una città tanto per citarne qualcuna così a caso. La creatività non, purtroppo non viene conosciuta, tant'è vero che le ricette sono l'unico, diciamo, valore dell'ingegno che non può essere coperto da copyright. Detto questo, sono imparzialmente d'accordo, perché in Italia ci sono creativi veri che curano i piatti con grande attenzione, però ci sono molti copiatori e quindi bisogna fare un distinguo. Non tutti sono creativi, non tutti applicano, diciamo, la cura che diceva il nostro amico da Roma. Ma io farei caso per caso, e quindi non estendo a tutti i ristoratori importanti questo valore, ad alcuni di essi sicuramente, ma poi vengono anche premiati sia dal pubblico che anche dalle guide. Io credo che la qualità in fondo paghi sempre, quindi quelli che, diciamo, applicano la loro creatività e questa cura nella scelta delle materie prime non risentiranno delle crisi, i blef risentiranno della crisi. Paolo Teverini, un'ultima considerazione con lei. No, è caduto, non ce la facciamo. Abbiamo allora un minuto di tempo, magari in 30 secondi. Sento Luca da Milano. Luca. Sì, buongiorno, io volevo fare una considerazione e una domanda. Ma per voi qual è il minimo di spesa che uno dovrebbe fare in un ristorante? Perché non mi sembra aver sentito una cifra. Io giro per l'Italia ormai da 15 anni per lavoro, anche all'estero spesso e volentieri. E ad oggi con meno di 25 euro non si riesce a mangiare più di un antipasto, un primo, o un antipasto, un secondo. Ma certo, Luca, io dipendo, guardi, devo salutarla e faccio concludere a Davide Paolini. Non credo che si possa generalizzare in assoluto, dare uno standard in assoluto, dipende dal menu che si sceglie, dall'obiettivo che ha anche il pranzo fuori casa, se è per lavoro, se è per puro diletto. Davide. No, non esiste una cifra ideale. Secondo me, come ho detto all'inizio, bisogna fare dei distinguo. Non si può giudicare il costo di un ristorante di Milano in pieno centro da un costo di una trattoria in campagna. Ovviamente ci sono delle differenze. O chi ha 10 persone in cucina e chi invece è una tradizione familiare, quindi c'è marito e moglie. Bisogna fare un distinguo. Secondo me generalizzare è sempre sbagliato, come dicevo prima sulla creatività. Anche quelli che si dichiarano creativi, o lo dichiarano o lo fanno dichiarare da qualcuno, sicuramente non lo sono tutti, quindi bisogna fare un distinguo anche su questo. Insomma, apprendiamo che questa crisi, oltre a fare una gran selezione anche di pulizia nell'ambito finanziario, sarà una crisi che porterà un bel po' di selezione anche nell'ambito dei blef legati appunto al settore della ristorazione. Con questa provocazione io saluto Davide Paolini, che è rimasto fino alla fine con noi. Davide, però ci risentiamo lunedì per i vini. Ok, a presto. Ti convoco già formalmente. A presto, grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata.